lesbien, lesbien, lesbien, lesbien, lesbien, lesbien, lesbien, lesbien, lesbien. 3 e 7 i numeri magici. Sì, io sono quella che si potrebbe chiamare una lesbica. Lesbica, lesbica, io sono quella che si chiama una lesbica. No, io non sono una lesbica. Io sono lesbica, sono una lesbica. Yes, I might say I'm a lesbian, but... Oui, je suis une lesbienne. Daria Vaccarello, lesbica. Saffica, io pratico il saffismo. Io sono lesbica, io pratico il lesbismo. Non ho più paura, io sono una lesbica. Buongiorno, io sono una lesbica. Fa niente. Amo una donna. Credi che ciò mi possa portare verso il lesbismo? Amo una donna. Forse sono lesbica. Tu sei lesbica. Posso essere lesbica? Possiamo essere lesbiche? Sapevate che io sono lesbica? Sentite, penso che sia giunto il momento di dirvelo. Sono lesbica. Le mie amiche sono tutte lesbiche. Ho già incontrato delle lesbiche. Vivevano a Roma? Io divido l'appartamento con due lesbiche. Nella mia strada c'è una lesbica. Al piano sotto a noi c'è una lesbica. È un peccato che la mia vicina del piano di sopra non sia lesbica. Sono andata ad una festa di lesbiche, ma non c'erano solo lesbiche. Conosco delle lesbiche, ma non sono solo lesbiche. Senza saperlo, ero lesbica. C'è una lesbica che vive in me. Sono lesbica, ma non ho mai baciato una donna. Senti, voglio baciarti, ma devi sapere che sono lesbica. Siamo tutte delle lesbiche. Amo una donna che non è lesbica. Dice. Non è perché sono lesbica che ho voglia di baciarti. Tua madre sa che sei lesbica? Mi trattavano sempre da lesbica. A scuola mi dicevano che ero lesbica. Non ho mai dubitato di essere lesbica. Sono sempre stata lesbica. Mi piace essere lesbica. Ci sono andata vicino all'essere lesbica una volta. Ci sono alcune che sono più lesbiche di altre. Noi siamo tutte lesbiche. Non si nasce lesbica, si diventa. Sembra che le donne che non si rasano più le gambe sono lesbiche. Fa niente. Mia madre ha sempre avuto paura che diventassi lesbica. In fondo, mia madre è una lesbica. Se un giorno diventerò lesbica, andrò a vivere in campagna. Mi dicono che si capiva molto bene perché ero lesbica. Quello che mi fa paura è invecchiare come lesbica. Sì, se avessi la vostra età, penso che sarei lesbica. In ogni caso, non ho voglia di morire da lesbica. Ho 76 anni e sono ancora lesbica. Beh, guarda, come minimo, quando sei lesbica, puoi amare le donne. No, io non sono lesbica. Senti, io non sono lesbica. Non ho mai detto che ero lesbica. Non provo attrazione fisica per le donne. Io sono caduta come per errore in un mondo pieno di lesbiche. Una lesbica. Tu sei lesbica? Beh, se lei non è lesbica, mi domando proprio cosa sia. Lei è lesbica. In tutti i modi è una lesbica. In tutti i modi siamo tutte lesbiche. Noi stavamo parlando solo di lesbiche. Questo è l'anno della lesbica. Le lesbiche vogliono il loro spazio. Penso che non si possa essere veramente femminista senza essere lesbica. Non ho mai avuto bisogno di dire che ero una lesbica. Non è evidente che sei lesbica. Non ho mai paura di dire sono lesbica. Vai con le donne? Sì, io sono gay. Sono una lesbica madre. Io non vado con le donne. Una ragazza che non è lesbica, ma che sta solo con lesbiche, si deve frenare molto per non essere lesbica.